siamo pervasi da quella voglia. Un programma che si chiama naturalmente ai chitarristi, una scheda con la quale trasformare in digitale il suono della nostra chitarra. Io per esempio attualmente entro con un suono già elevato da migliorare il suono della nostra chitarra. Vediamo subito come funziona il programma. Allora, prima di scegliere una stanza, si può insieme forma.